Grazie Mirko, buongiorno. Ci siamo? Pronti? Tanto ormai le battute si sprecano, eh? Questo arriverà a 90 anni prima che finisce i salmi, eccetera, eccetera, eccetera, ma io amo i salmi e la mia preghiera è che tutti quanti noi possiamo amarli un pochino di più, sempre di più. Chi ama più il Salmo 1 dalla scorsa volta? Se avete sentito il messaggio sul Salmo 1, ovviamente. La mia preghiera è che questo amore per la sua parola in genere possa crescere sempre di più. La scorsa volta abbiamo visto che il Salmo 1 e 2 sono un pochino l'introduzione a tutto il libro dei Salmi. Abbiamo scoperto le sue ricchezze. Il Salmo 1, in particolar modo, ricordate, era quel salmo che ci diceva: beato, benedetto, ricco è l'uomo che si radica personalmente, con tutte le sue forze, con tutta la sua vita in questo libro. E facendo così crescerà ad essere un albero rigoglioso, fruttifero, forte, che porta il suo frutto quando deve e lo fa con efficacia. Vi ricordate? Abbiamo anche detto che il libro dei Salmi, in particolar modo, e questa è una cosa bellissima e forse anche unica, al libro dei Salmi, è che i Salmi sono una cosa per esprimere sentimenti e sono parole per esprimere gioie, dolori, eccetera, eccetera, eccetera. Servono a farci esprimere sentimenti che noi stessi magari non sappiamo come esprimere. I Salmi ci danno le parole per farlo. Non solo ci aiutano ad esprimere questi sentimenti, ma li modellano, li plasmano secondo quelli che sono i veri sentimenti e i giusti sentimenti, secondo la verità, quella di Dio. Per questo i salmi sono così ricchi, perché non solo ci permettono di esprimerli, ma li plasmano secondo quelli giusti e secondo quelli veri. E quindi con i salmi non si può mai sbagliare, mai. A dire il vero, con tutta la parola di Dio non si può mai sbagliare, con i salmi non si sbaglia mai. Il Salmo 1 ci incoraggiava a far questo, in tutta sapienza, a fondarci in questa parola. Fratelli e sorelle, continuiamo a farlo costantemente. Se vi posso pregare di fare una cosa, vi ricordate, gruppo Lode, vi ho detto, per favore, qualsiasi cosa fate, tutto quello che fate qui sopra nel condurci ad adorare Dio, per favore fatelo con i salmi. Plasmate i nostri sentimenti, plasmate i nostri momenti di lode e adorazione a Dio con la traccia che Lui già ci ha tracciato, i salmi. Per favore, non vi scansate da questo perché è vita. Fratelli e sorelle, nelle nostre camerette, nella nostra solitudine, nella nostra preghiera, nella nostra meditazione, nel nostro leggere, nel nostro eccetera, eccetera, eccetera, preghiamo, cantiamo, meditiamo i salmi perché ci plasmeranno secondo la volontà di Dio. Amen. Per questo dobbiamo andare ai salmi. Siete pronti? Perché oggi andiamo al Salmo 2, che, come dissi la scorsa volta, era la seconda parte dell'introduzione al libro. E dove il Salmo 1 era un'introduzione più di incoraggiamento, proprio di istruzione, lo dice proprio, istruzione il Salmo, il secondo Salmo è un poco più profetico, ci alza gli occhi e ci fa guardare oltre. Ed è bellissimo. Devo dire una cosa, prima di immergerci nel Salmo 2, è che è questa. Il Salmo 2 è un salmo regale. Cioè ha a che fare con il re e con il re di Israele. Vi ricordate che, quante cose ci stiamo ricordando, fate così almeno con la testa se ve le ricordate appena appena. La scorsa volta, vi ricordate che abbiamo detto che ci sono tanti tipi di salmi? Li abbiamo raggruppati in quattro gruppi generali, anche se non sono proprio precisi, però per aiutarci sono quattro gruppi generali. Uno di questi gruppi era noi salmi regali. Cioè i salmi che hanno a che fare con i re. Ora, il Salmo 2 è un salmo regale, cioè ha a che fare con i re di Israele, con il re dei re, che è Cristo Gesù, è il re dei re, fratelli e sorelle, dai, con il re dei re e con tutto il popolo di Israele. I salmi regali sono i salmi più difficili da interpretare, cioè da leggere e capire a chi sta parlando e a chi vale, vale per me, vale per come devo leggerlo questo salmo e capire come mi devo far parlare da questo salmo. I salmi regali sono un po' più difficili, sapete perché? Perché possono avere tre soggetti diversi e li ho già elencati, cioè possono avere tre interlocutori diversi. Il salmo regale, cioè che ha a che fare con i re, ogni volta che leggiamo un salmo che dice re questo, re quell'altro, o benedici il tuo re, o il suo regno, la sua battaglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni qualvolta che noi leggeremo questi salmi, perché noi li leggeremo, dobbiamo stare attenti, perché dobbiamo capire, prima e più di tutto, a quale re sta parlando. Sta parlando a un re di Israele, e quindi forse Davide, molto probabilmente Davide, perché anche lui è l'autore della maggior parte dei salmi, no? Quindi ha a che fare forse con Davide, forse con uno dei re di Israele. Questo è un possibile soggetto. Un altro è Cristo Gesù, il re dei re. In questo senso, anche in questo senso, il Salmo 2 è profetico, perché già parla di un re che verrà migliaia di anni dopo, centinaia e centinaia di anni dopo dal salmo che è stato scritto. Già parla dei re, dei re. Quindi questo potrebbe essere il secondo interlocutore. Il terzo, non vi state perdendo, vero? Ci siete, è chiaro, no? Il terzo interlocutore è, può essere tutti quanti noi, il popolo di Dio. Perché? Perché il re, in un certo senso, aveva un ruolo importantissimo. Doveva rappresentare il popolo davanti a Dio. E in un certo senso era il modello. Era l'israelita, no? Il figlio di Dio ideale, al quale tutti dovevano guardare e tutti dovevano imitare. Ci siamo? Quindi per questo è un po' difficilino interpretare i salmi regali, perché potrebbero avere questi tre soggetti. E a volte c'erano tutti e tre. Benissimo, bello. Allora, leggiamo il salmo e guardiamo queste cose qua. È bellissimo, il salmo 2 è bellissimo. Lo so che lo dico di tutti i salmi, però questo è il più bello. Poi la volta dopo dirò che è quello successivo il più bello. Comunque, leggiamo il salmo 2 perché è bellissimo. Salmo 2, dal verso 1. Perché? Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro l'unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io, d'altro canto, io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò razioni in eredità e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con verga di ferro e tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Non è bellissimo? Non è bellissimo? Ma insomma, ira, furore, ci schiaccerà, ci annienterà. Insomma, Salmo 23 è un po' più caruccio, diciamo così, no? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. È un po' più caruccio, no? No, ragazzi, fratelli e sorelle, amici e amici, questo Salmo è bellissimo. È un Salmo che proclama chi Gesù è, il suo Vangelo. Ogni cosa è racchiusa in questo Salmo. Ci vorrebbero 3 ore per vederlo per bene. Vediamo se ce la facciamo in 1 ora e mezza, d'accordo? Le nazioni si agitano. Questo salmo può essere diviso in 4 parti da 3 versi. Se lo guardate un po' più da vicino, no? Questo va scavato un po' di più, perché più si scava più i diamanti si trovano. Una lettura superficiale si può dire è più bello il 23. Questo è bellissimo, e beh, ve lo assicuro. Può essere diviso in quattro parti da tre versi. Dal verso 1 al verso 3 c'è la descrizione di queste nazioni che si agitano, che fanno caos, che creano confusione. E il Salmo inizia con questo perché. Perché? Perché si agitano? Beh, ma vale la pena? Se lo chiede proprio così, il salmista dice perché si agitano? Ma perché? Ma perché non serve a niente? Infatti subito dopo dice tramano cose vane, non serve a niente. Perché il salmista è consapevole delle promesse di Dio e ce li ha bene a mente e dice questi fanno i loro casini, ma sono cose vane, sono cose inutili. Che cosa fanno le nazioni? Dicono, rompiamo i legami e le funi, rompiamo. E le nazioni rompono, letteralmente rompono, distruggono, annientano, rompono. E le nazioni dicono, rompiamo i legami. Sapete quali legami le nazioni vogliono rompere? Vogliono rompere quel legame al giogo leggero di Cristo Gesù. Vogliono rompere quelle corde, Osea 11, di amore e di affetto che il Signore costantemente stende verso di noi per attirarci a sé. Quei legami, quelle corde, le nazioni vogliono rompere e vogliono spezzare. Vogliono rompere la loro relazione con Cristo Gesù, con il Dio vivente, con il Dio degli eserciti. Vogliono rompere e vogliono distruggere quello. E il salmista dice, è cosa vana. Non è cambiato nulla, vero? Cioè questo salmo è stato scritto più di 1000 anni fa ed è così attuale, non è vero? Le nazioni rompono. L'ISIS, lo Stato Islamico, distrugge e annienta chiunque e qualunque cosa fisica anche che non si allinea con le loro ideologie. Distruggono e portano confusione e tramano contro il Dio degli eserciti, contro il Dio dei dii, contro il re dei re. Tramano. La Russia, l'Ucraina fanno lite fra di loro. Chi ci va di mezzo? È la popolazione. Sono gli innocenti molto spesso. E il Signore piange. Il Signore si addolora. E il salmista dice, tramano cose vane. Stanno a fare lite per niente. La nostra beneamata Italia trama contro il re dei re per mancanza di giustizia, per mancanza di una morale politica e morale in genere. Chi ci va di mezzo sono i più deboli. Troppo spesso le nazioni tramano contro Dio e Dio risponde. E Dio risponde. Verso 4, Dio risponde e dice, colui che siede nei cieli, colui che siede nei cieli, solo a dirlo, ci deve incutere timore, perché lui non è un essere di qua giù e non è uguale a nessun altro, lui siede nei cieli, è Signore. Signore, il termine originale che lo conosciamo, l'abbiamo sentito spesso, è Adonai. E la parola Adonai significa maestro, padrone, umest, il maestro che tu guardi con riverenza e con timore perché hai in mano il potere di farti lavorare o di farti morire di fame. Lui è il maestro che siede nei cieli, lui è il maestro dell'universo. E lui ha ogni cosa sotto il suo controllo. Lui ha il fato di ogni nazione sotto i suoi occhi. Ma il fatto che lui siede nel cielo non significa che è un Dio distante, che non si interessa e non è coinvolto. Significa soltanto che lui è al di sopra, lui è sovrano, e ogni cosa sotto il suo controllo e che interviene. Dico meglio, ha intervenuto, interviene e interverrà nel momento giusto, al momento giusto e per la ragione giusta, perché lui è un Dio giusto ed è un Dio sovrano. Questo significa che lui è Adonai nei cieli. Lui è maestro su tutto. È questo Adonai nei cieli, risponde. E come risponde? Dice: io mi farò beffe di loro, io riderò. Perché sono cose vane che tramano queste nazioni. Dio ride, Dio si fa beffe di loro. Dio si fa beffe delle nazioni che tramano contro di Lui. Ancora oggi, fratelli e sorelle, questo deve portare in noi speranza. Quando guardiamo il telegiornale, ascoltiamo le notizie, ci twittiamo questi messaggi. Il nostro Dio è sovrano e Lui si fa e si farà beffe di chiunque è contro di Lui, perché Lui è in controllo. E non solo, va avanti, il Signore dice: io sono io che ho stabilito una cosa. E questo è il centro del Salmo. A dire il vero, il centro del Salmo, il verso 6 e il verso 7, che in parole diverse e da personaggi diversi, come vedremo, sta dicendo la stessa cosa. E il Signore dice: io sono io. E con questo io enfatico, diciamo, con questo io grande, il Signore sta dicendo: vabbè, voi nazioni, fate quello che state facendo, va bene, state facendo confusione, state facendo pagare gli innocenti, va bene, voi fate quello. Qui il Signore sta dicendo, in altre parole, per conto mio, io ho fatto una cosa. Io ho stabilito una cosa, da eternità passata a eternità futura ho stabilito questa cosa. Io ho messo il mio re sul mio monte. Il Signore ha stabilito questa cosa importante, questa noi non ce la dobbiamo far sfuggire, questa è la parte centrale del Salmo. Questo va cantato, il suo re è stabilito sul suo monte da eternità passata a eternità futura. Questo è quello che il Signore sta dicendo. Io ho stabilito il mio re. Qui si chiude la seconda parte con i 6 versetti e inizia la risposta al vaneggiare delle nazioni, al loro fare confusione. Questa è la risposta. E ha appena parlato il Signore, colui che è nei cieli. E se questo fosse un film, la telecamera adesso transiterebbe da il cielo dove Dio ha appena parlato e ha detto: io ho stabilito mio figlio, alla terra. E adesso è il figlio che parla, adesso è il re che lui ha stabilito che parla. Ci siamo? E Sam, no? Dal cielo passa alla terra, adesso chi sta parlando, verso 7, è il re, è colui che lui ha stabilito. Verso 7, io annuncerò il decreto, dice il re che Dio ha stabilito. Come in un eco, ripete quello che Dio ha appena detto. Vi dicevo, il 6 e il 7 dicono la stessa cosa da persone diverse, in modo diverso. Qui il re, l'eletto, dice: il Signore mi ha detto, l'Adonai nei cieli, il Dio eterno mi ha detto a me: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Dio ha fatto una cosa, e ha fatto una cosa bellissima, e ha fatto una cosa gloriosa. Lui ha stabilito un regno e lui l'ha stabilito con il re Davide. È iniziato con Saul, non è andato benissimo, ma con Davide il Signore ha trovato il suo diletto e ha fatto una promessa. Sapete, l'altra mattina lo leggevamo insieme a Elijah, il Salmo 89, magari andatelo a leggere a casa e vedete cosa dice del Salmo di Davide, dice che, del regno di Davide, dice che il tuo regno non avrà mai fine, non ci sarà mai fine a quel regno. E io chiedevo a Elijah, ma com'è? È possibile? Perché oggi Israele non ha un regno, vero? E diceva, sì, è vero, papà. E quindi questo re nella discendenza di Davide, dove sta? Chi è? Chi è? In realtà, chi è? È Cristo Gesù. Cristo Gesù è nato dalla discendenza di Davide e ha adempiuto qualcosa che era limitato. Davide e i suoi discendenti sono stati i re di Dio, hanno portato la sua giustizia e il suo giudizio in maniera imperfetta, non l'hanno fatto in maniera completa. Solo Cristo Gesù, il promesso, il re dei re, colui che è nato dalla discendenza di Davide, ha compiuto in sé perfettamente e ha stabilito in sé una volta per tutte il regno di Dio e il suo giudizio. Il fatto che questo versetto di questo Salmo, che è meraviglioso, è uno dei versi più citati in tutta la il Nuovo Testamento, cioè ripreso nel Nuovo Testamento, e il fatto che Dio stesso usa queste parole di questo versetto al battesimo di Gesù. Vi ricordate? Gesù entra nelle acque, una voce cade dal cielo e dice: questo è il mio figlio che ho generato, il mio diletto. Vi ricordate? Gli apostoli lo ripetono dopo la sua risurrezione, dopo morte e risurrezione di Cristo Gesù. Quando parlano del Vangelo, quando proclamano il Vangelo, una delle prime volte, dopo la morte e la risurrezione di Cristo Gesù, usano questo Salmo. Che cosa stanno facendo? Stanno sottolineando e proclamando che Cristo Gesù è il Re dei Re, che è stato, che è e che sarà, e che porta in maniera completa e perfetta il giudizio di Dio. Non basteranno 20 ore per questo Salmo. È stato stabilito il suo figlio, il Re dei Re, in eterno. E Dio dice a questo suo figlio, a questo suo re, è a lui che lo chiede. Non è che lo chiede a noi. Noi non possiamo cantare questo salmo come abbiamo fatto in passato. Chiedimi e ti darò nazioni. A me, Signore, sì, dammi le nazioni, a me, che io devo spaccare tutto. No, lo dici a Cristo Gesù, il Figlio, il Re dei Re, sovrano in eterno. Che cosa gli dice? Gli dice: chiedimi e io ti darò nazioni. Chiedimi le estremità della terra, io te le darò in eredità. Per fare cosa? Per fare cosa? Per spezzarle e frantumarle. Questo linguaggio non è iperbolico, no? Significa non è esagerato. Sai, quando si esagera una cosa per far passare il messaggio, no? Dici, mille volte te l'ho detto. Non è che tu veramente gliel'hai detto mille volte, letteralmente mille volte, però gliel'hai detto tante volte, però si dice mille volte per esagerare, per far passare il messaggio, no? Questo non è questo tipo di linguaggio. È così. Dio ha dato a Cristo Gesù tutte le nazioni e le estremità della terra. Vi ricordate quando Gesù, dopo la sua morte e la risurrezione, è andato ai suoi discepoli e gli ha dato il grande mandato per tutte le nazioni? Prima di fare così, che cosa ha detto? Ha detto: tutta l'autorità mi è stata data. Da eternità passata a eternità futura, il Signore ha dato tutta l'autorità su tutte le nazioni a Cristo Gesù. E le ha date per rompere, per spezzarli, per frantumarli, per distruggerli, fratelli e sorelle. E lo so che noi non diamo... non parliamo molto spesso di questa immagine di Cristo Gesù. Ma è così. Ma è così, fratelli e sorelle. Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti. Quando tornate a casa, io non ho il tempo, leggetevi Apocalisse 19. Guardate un po' come descrive lì Cristo Gesù quando tornerà sul suo cavallo bianco. Cristo Gesù tornerà a giudicare le nazioni che confabulano, che agitano, che portano dolore e distruzione. Dio giudicherà in Cristo Gesù Hitler e tutti quelli come lui, perché lui è un Dio giusto. E non sarebbe giusto se lui non lo facesse. Dio, e questa è una nota che voglio fare, non è Babbo Natale. Non è seduto sul suo trono rosso e dice: dai, siediti qui, dimmi quello che vuoi. Fratelli e sorelle, è un'immagine sbagliata di Dio. Dio è Adonai nei cieli. Dio è il Signore supremo sulla terra. Leggere il Salmo in questo modo deve cambiare, modificare e plasmare i nostri sentimenti e come noi vediamo Dio. Ero prima lì che mi sforzavo a farlo, perché vi assicuro, e sono d'accordo con noi, voi, non è facile lodare Dio in questo modo qua. Ma ero lì, quando cantavamo insieme, dicevo, quando noi cantavamo Gesù, non c'è altro nome, tu sei il Signore dei Signori, su tutta la terra, su tutte le cose, io dico, Signore, sì, tu sei pieno di ira, tu sei tremendo e tu verrai a giudicare con potenza. Io tremo davanti a te e io sono qui in tutta paura davanti a te perché tu sei un Dio tremendo. È bello lodare Dio così. È completo adorare Dio così. Perché Dio è anche questo, non è Babbo Natale. Ho fatto un excursus che non dovevo fare. La pagherete cara. Perché siamo chiamati ad andare fino all'estremità delle nazioni? Perché? Perché noi, chi è in Cristo Gesù, lo vedremo dopo, chi è in Cristo Gesù è il portatore di speranza, di pace e di amore alle nazioni. Siamo noi, fratelli e sorelle, che dobbiamo andare all'ISIS. Siamo noi che dobbiamo andare in Crimea e nel sud-est Ucraina. Siamo noi che dobbiamo andare fino all'estremità della terra a dire, guardate che Cristo Gesù viene e viene a giudicare. Ravvedetevi. Era questo il messaggio degli apostoli. Ravvedetevi perché lui viene a giudicare. Ravvedetevi. Venite a lui. Tutta l'autorità è stata data a Cristo e lui l'ha riversata su di noi per far questo, per andare alle nazioni e dare speranza e dare pace e dare amore in questo senso, perché al di fuori di Cristo Gesù c'è solo distruzione. Però mi sto già portando avanti. Perché? Perché siamo arrivati all'ultima parte del Salmo. E il Salmo 2 è bellissimo. Perché? Perché se si fermasse qui il Salmo 2 non sarebbe bellissimo e sarebbe incompleto. Invece il Salmo 2 è bellissimo ed è completo. Perché? Perché al verso 10 esplode tutta la grazia di Dio, tutto il suo amore è l'atto pratico che lui è abbondante in amore ed è lento all'ira. La parte di ira di Dio c'è, non si può cancellare, però è lenta, perché lui è abbondante in amore. E nel verso 10 esplode tutta. Siate saggi, lasciatevi correggere, dice il re. Dice ai re, adesso che siete in tempo, adesso che il Figlio di Dio non è tornato in tutta la sua gloria con tutti i suoi angeli per giudicare i vivi e i morti, siete in tempo, lasciatevi correggere. Vedete qui tutto l'amore, tutta la premura e tutta la cura di Dio anche verso Hitler. Lasciatevi correggere, lasciatevi cambiare, c'è speranza, se cambi oggi, c'è speranza per te, c'è vita, c'è amore, c'è grazia in Dio. E il Signore esplode in tutto il suo amore dicendo, lasciatevi correggere, servite il Signore con timore e gioia. Usa queste due parole bellissime, che vanno accoppiate insieme per forza. Timore, tremore, è quello che dicevo prima. Signore, tu sei Adonai nei cieli. Io mi illudo se posso andare avanti per sempre nel mio peccato e nelle mie vie, perché tu vedi ogni cosa e giudicherai ogni cosa. Io, con tremore e timore, vengo davanti a te perché tu sei un Dio tremendo e non sei Babbo Natale. Io vengo davanti a te perché tu sei il re dei re, il Signore dei signori e re dei cieli. Ma non si ferma là. Dice, io vengo anche con gioia, con gioia. Come fai ad andare con gioia il Signore che distruggerà tutto, franturerà ogni cosa? Bellissima, a Elijah piace tantissimo quella figura, no? Dice, il Ninjago è uguale, no? Distruggerà e annienterà tutto, bellissimo. Però c'è anche gioia. Perché? Perché gioia? Perché io, che mi meritavo, mi merito e meriterò distruzione, se mi rimetto a Lui, Lui cancellerà ogni cosa, perché Lui ha pagato già tutto per questo. Lui dice, tu vieni a me, riponi la tua fiducia in me. Riponi la tua fiducia in te, in me, e per te ci sarà grazia, per te ci sarà perdono, per te ci sarà riconciliazione, gioia, ma per forza gioia, perché io mi meritavo la distruzione completa e Lui mi dà una via di fuga, Lui mi dà l'amore, Lui mi dà la grazia, Lui mi dà il perdono. In Lui, il distruttore che deve distruggere, dice, se tu ti fidi di me, se tu riponi tutta la tua fiducia in me, io invece di distruggerti, ti accoglierò, ti abbraccerò, ti amerò, ti proteggerò dalla distruzione. Io ti tirerò fuori. Gioia, è per forza gioia. Io dovevo essere distrutto e non lo sarò più. Io vado al Signore, Adonai dei cieli, e dico grazie, grazie, grazie. Perché tu sei un Dio tremendo, ma hai avuto amore infinito nei miei confronti. Per questo io ti ringrazio. Per questo io vengo davanti a te con gioia. Il Salmo finisce proprio con questa frase: beati tutti quelli che confidano in Lui. Non c'è a rifugiarsi da Dio, non c'è sicurezza da Dio e dalla sua ira se non in Lui. Se siamo in Lui, siamo al sicuro, siamo protetti, siamo benedetti, siamo beati. No? Riporta al Salmo 1 e lo chiude questa introduzione: beati quelli che non confabulano, non agitano, non cercano di rompere quei legami di amore, ma che meditano la sua parola e queste verità emergono fuori. Beati quelli che si rifugiano in Lui. Non è un salmo bellissimo. Non è un salmo completissimo. Non è un salmo glorioso. Queste sono le sue verità. Le nazioni confabulano e confabuleranno sempre. E non ci devono spaventare. Perché Dio ha saputo, sa e sempre saprà che lo fanno. Questo salmo ci deve dare speranza. Il Signore già lo sa. L'Isis è cosa vecchia. Io già lo sapevo. Io già lo sapevo. Io ho già rimediato a una soluzione. Il mio re dei re, il mio Signore dei signori, che verrà e giudicherà. Lui giudicherà. Voi non vi preoccupate di queste cose. Voi leggete in chiave diversa quello che i telegiornali vi dicono. In questa chiave qua, con queste verità qua. Perché? Perché c'è un'altra storia scritta dall'Adonai che è nei cieli. E che è la vera storia, è quella che si consumerà. Ed esplode in tutta la sua grazia e tutto il suo perdono. Venite a me. Venite a me, voi che siete confusi, voi che vi siete ribellati, voi che vi siete agitati, voi che avete confabulato contro di me, non fa niente, venite a me. E io restauro ogni legame, e io restauro ogni cosa, e io vi leggo a me, c'è perdono in me. Sei beato se confidi in me, perché c'è riparo all'ombra delle mie ali, dice Cristo Gesù. E questo è tutto il Vangelo. Due cose per finire. Uno, come questo salmo deve plasmare le nostre emozioni, quello che noi viviamo, quello che noi leggiamo, quello che noi sentiamo sul telegiornale delle nazioni, di quello che ci circonda. Dio è in controllo. In Atti, al capitolo 4, gli apostoli, dopo essere stati perseguitati, dopo essere stati malmenati, dopo essere stati rilasciati, hanno pregato insieme questo salmo, iniziando col dire: Signore, tu sei sovrano. Signore, tu sai quello che questi stanno facendo, quelli che hanno fatto al tuo figlio. Ponzio Pilato, i giudei, i greci, i romani, tu sai quello che hanno fatto. E l'hanno fatto perché era la tua volontà, tu l'hai permesso, tu volevi che tuo figlio morisse. Ma noi ti chiediamo una cosa, dicono gli apostoli, ti chiediamo una cosa. Tu sei in controllo di queste cose e noi abbiamo pace in te perché tu sei in controllo. Una cosa ti chiediamo, fa che in tutte queste cose, quindi dicono non cambiare le nostre circostanze, non cambiare le difficoltà, non cambiare quello che ci spaventa, dicono in tutte queste circostanze fa sì che noi possiamo proclamare il Vangelo di Cristo Gesù. Come plasma la tua vita questo salmo? Come plasma i tuoi pensieri? E come tu vedi il mondo? E come leggi il giornale? E vedi il telegiornale? Questo salmo lo deve plasmare, lo deve cambiare, lo deve trasformare, come lo ha fatto con gli apostoli, fratelli e sorelle. Noi abbiamo un Dio che è in controllo. E Lui estende tutta la sua grazia. La seconda cosa è che in questo salmo c'è tutto il Vangelo che è in Cristo Gesù. Che cos'è il Vangelo? È la buona notizia. È la buona notizia che noi siamo chiamati a portare fino all'estremità della terra. Se tu sei qui oggi e non hai mai sentito della buona notizia che è in Cristo Gesù, la buona notizia che è in Cristo Gesù è questa, che tutti hanno peccato. Tutti hanno confabulato, tutti si sono agitati e ribellati a Dio, volendo spezzare e rompere quei legami di amore fra noi e Dio. Tutti l'abbiamo fatto, io, Gianluca Ronchi, prima e più di tutto. E Lui un giorno verrà in tutta la sua ira, in tutto il suo ardore, in tutta la sua forza come Signore per giudicare i vivi e i morti. E Lui lo farà. E noi diciamo, coloro che hanno confidato in Cristo Gesù, diciamo, Signore, fallo presto. Perché siamo così malsani da dire, Signore, fallo presto? Perché noi sappiamo che abbiamo ricevuto salvezza da quella ira. Noi abbiamo ricevuto rifugio da quella ira. Noi abbiamo ricevuto amore e perdono da quella ira perché abbiamo confidato in Cristo Gesù. Quando Lui verrà, su quel cavallo bianco, tremendo, più splendente del sole, c'è scritto. Chi non ha confidato in Lui, tremerà. Noi, che abbiamo confidato in Lui, vedremo la bellezza più totale. Cadremo sulle nostre ginocchia e diremo, Signore, finalmente, Tu sei qui. Io aspettavo Te. Perché Tu mi hai amato con tutto il Tuo amore, dandomi una seconda opportunità alla mia ribellione, amandomi e perdonandomi. Finalmente sei qui. E Lui ci porterà con sé, presso il Padre. Questo è il Vangelo contenuto in questo Salmo. Questo è quello che è successo a te, che hai riposto la tua fiducia in Cristo Gesù. Questa è la tua vita, questa è la tua speranza, questa è la tua gioia, fratello o sorella che sei. Questa è la tua speranza. Sei salvo e sei nelle braccia del Padre. Oggi è il giorno della tua salvezza, se non hai riposto la tua fiducia in Cristo Gesù. Perché? Perché Cristo Gesù è venuto sulla terra per la prima volta 2000 anni fa. E tu potrai dire, vabbè, queste sono storielle, sono favole. Chi confida in Lui, chi si fida che queste non sono storielle, chi ha fiducia che questa è la storia, è beato e salvo. Io ci credo che non sono storielle. Cristo Gesù è venuto la prima volta. E Lui ha detto, io non sono venuto per giudicare, ma io sono venuto per salvare. E Lui è venuto per salvare. Per questo oggi, c'è un altro versetto che dice, oggi è il giorno della salvezza. Perché oggi è il giorno della salvezza? Perché Cristo Gesù tornerà una seconda volta, ce l'ha promesso. E in quella seconda volta Lui scenderà dal cielo con il cavallo bianco per giudicare i vivi e i morti. Quella seconda volta non sarà per salvare, sarà per giudicare. Per questo, un altro verso della sua parola dice, fin quando oggi si chiama oggi, riponi la tua fiducia in Lui, perché oggi è il giorno della tua salvezza. E io non lo so se sei qui da una vita o per la prima volta stamattina. Io non lo so se tu hai confidato in Cristo Gesù o hai bisogno di farlo di nuovo questa mattina. Lui è Adonai nei cieli. Lui è il Maestro, il Signore dei Signori. Lui è il Re dei Re che porta salvezza. Il messaggio del Salmo 2 è questo. Non c'è rifugio, non c'è salvezza da Lui, se non in Lui. Amen. La mia preghiera è che questo messaggio, questo salmo, queste parole di vita possano trasformarci. Ci alziamo in piedi. Signore Gesù, noi veniamo davanti a Te. Padre, Ti ringraziamo perché Sei un Dio tremendo. E Sei un Dio potente. E Sei un Dio efficace. E Sei un Dio vero. E Sei al di sopra di ogni altro Dio. E di ogni altra realtà. Di ogni nazione che si agita e confabula. Signore, noi riponiamo la nostra fiducia in Te, perché solo in Te c'è salvezza. Solo in Te, è vero, c'è salvezza. E solo in Te noi possiamo avere gioia. Padre, per questo noi ci rimettiamo a Te. E Padre, io prego che questa mattina, nelle nostre vite, in questo momento, il messaggio del Salmo 2 possa trasformarci e cambiarci. Padre, per i credenti che hanno perso di vista in mezzo a noi, chi Tu sei e quello che Tu hai fatto di così prezioso per noi. Padre, io Ti prego affinché in questo momento possa diventare vivo e vero. E Padre, per chi non Ti ha conosciuto in questo momento, io prego affinché Ti possa incontrare, Padre. In questo momento, come solo Tu puoi fare, in un istante, io prego affinché Tu possa rivelarti attraverso la Tua parola e trasformare per sempre.